quando ci ho messo a questa dove troppo usciamo. Ah, ma Sassari? Ehi, ehi, ehi, noi abbiamo, Marina l'ha già acquistati. Ah, beh, che ultimi in tre. No, 10 euro si paga. Ah, dammi come sono fatto prestare una campanellina, se gliela richiedo, se no mi compro, adesso, mi porterò, dei tappi di coso, di pentole, cosa adesso? E i coperchi, vabbè, tappi, coperchi, ci siamo capiti, dai. Mi sono divertito, c'è anche un po' di caldo, io c'erano 30 gradi dentro. Mi sa che sei cappuccini. E la papà più giù. Eia, eia, non c'era a sbagliare, è lì, è grande, eh. Qua ti diverti già. E già c'è la gente cantando. È stonata, eh. E me lo posso immaginare. Ah, io non ne ho su QRM, è a zero il mio, già. Vabbè, io ho questa antenna così. E abbi pazienza, dai. No, sono qua già, mi sto facendo una partita Super Mario. Sì, ma va rumore, se no mi scarica la batteria. Il mio preferito è l'abbraccio di ferro, mamma mia che bello il gioco. Beh, ma ci fanno batteria. Bello, cazzo, quel gioco era... Mi sono fatto grande con quel gioco io. Sai che non c'è più. Più la costava di giù, più vabbè adesso... se lo facessero con la Xbox oppure con la PlayStation ci giocherei volentieri, mi piace dopo su Yoku. No, bacio di ferro, va troppo bello già. Ehi, ehi, bello, bello, cazzo, bello. Vabbè, anzi io che ci sono adesso non è che mi attirano più di tanto, anzi non ci gioco neanche qua, c'è la, volendo la Xbox, sono Wii U. E anche il Tele Maria gioca a computer, gioca più a computer che a Xbox. Ma guarda, mi ha alzato. Aspetta un attimo, c'è qualcosa che mi sta disturbando, sento il QRM adesso. Dici? Caccio questo rumore già un po' ti copre, sono solo qui la voce. Ti copre un po'. Se basta la tua che sta la mia. Ah, adesso sei sparito già. Ciao, Fra. Ciao, ascolto, ho sentito che fai cosa, la voce è bassa. Cavolo, e cosa ti è successo? La voce è bassa o io? No, non tu, sei quella di Gianni, è una voce bassa, chissà come sarà quella alta. No, vabbè, purtroppo Gianni ha anche problemi di antenna, capito? Il discorso è che io ho una piccola antenna e non ricevo bene, attenzione. Adesso sì. Non ti capisco più, Stavi andando benissimo, chiarissimo, cioè chiarissimo relativamente all'eco, però lo sai che sulla voce proprio sono pignolo, no? Adesso non ti sento, non riesco a capire quello che ti diceva. Oh, guarda, su questi apparati l'eco non va bene, questi c'hanno, cioè stanno sul loro canale. Mi tocca mettere, accendere il portatile per ascoltarti. È proprio sassarese, ho tutto nuda. Ma come eri prima, non la potevi mettere, scusa, senza parlare. Prova, dai, parla da lontano, parla. Oh, così ti ascolto. Ti ascolto bene. E mi manda il picco proprio impazzisce, diciamo, perché ti taglia, queste sono radio che lavorano già con molto strette, figurati con emissioni così, ma vabbè, comunque adesso ti sento, a Luca lo sento benissimo, e poi gli altri che ci sono non li sento, non so perché. Beh, questo in pratica è un baracchino, ma è di quelli seri. Poi te lo spiego, ma guarda, sta andando con una potenza enorme di addirittura precisi, non ho capito perché quando scalda arriva a 3,5 watt, c'è un picchetto piccolo che lo porta quasi a 4. Sicuramente, ma rinforzi in che senso? Tiranti? No, perché li avrei dovuti mettere? Non li metto su, su quelle che lo stesso sono a due o tre sezioni, quelle come si chiamano? Insomma, mi è capitato, non so, le VU, che sono lo stesso alte, poco più basse, però hanno tante sezioni, ma non emetto. L'unica cosa che faccio è tappo i punti d'unione, ecco, con del nastro focalizzante, così sono certo che non entra acqua, ma rinforzarla, l'antenna è progettata per essere così. Sì, io l'ho messo solo, scusate, il nastro focalizzante per non entrare acqua, perché qua li condensa, figurati, c'ho anche sottoterra, nei tubi interrati sottoterra c'è anche di acqua, per effetto condensa. Quindi l'ho piazzata così come me l'hanno data, ci ho fatto questi giri di vulcanizzante o anche di nastro, va bene, di quello buono ovviamente. E tira campana, fino adesso è lì e sta andando, anzi diciamo che avevo intenzione di metterci mano, ma non sull'antenna, sul palo per alzarlo ancora, dato che il vento forte non l'ha fatto un tubo, la porto un po' più su, così almeno le zone che per me sono chiuse, tipo i punti eccetera, riesce a fare qualcosa di meglio. Sì, sì, potenza è molto bassa, ma aspetta che guardo quanto è, perché è qua anche segnale basso, comunque si sentono con radio buone, non c'ho le differenze che molti hanno, arrivi basso, però voglio guardare, cioè quando parlo io appena due questo affare. Per stazionare vedi sono perfette, sono dopo la potenza, certo che questo affare è una cagatina, peggio di un omologato, comunque ci accontentiamo, prova bene avanti. Allora ti dico subito, non ti spaventare, qua sale a 6, sale a 6 il segnale, però è di quelli digitali, quindi può essere 8, può essere 9, diciamo che a 6 la radio è buona, non sento rumori, non sento QRM, non sento USB, non sento niente, però la radio è buona, tieni presente che una radio comunque è molto sensibile questa, quindi non riceve il QRM stranamente, però le emissioni molto distanti, l'ho già provata anche qua, sento gente che parla da molto lontano. Comunque E6, qua segna 6, prima credo che segnasse 8, 9, una cosa del genere. No, non è detto, è comunque facile da misurare. Avete 2,5 non è un valore drammatico, però lo puoi accordare tramite la... si chiama il tondo, dai, e la spirale. Ah, il montaggio è banale, dai, no, cioè, adesso non ricordo se è 2 o 3 pezzi, però non devi fare altro che stendere questo filo, credo che vada ancorato sopra, adesso non me lo ricordo se c'è un tappo sopra che lo tiene, comunque c'è il filo dentro, e c'hai due cose di vetroresina che si avvitano. E quelli diciamo è sempre meglio, innanzitutto ci mette un po' di grasso, giusto perché in un futuro se devo fare qualcosa posso aspettare, quello buono ovviamente, e poi ci metti del nastro per impermeabilizzarlo meglio, e la polichetta la metti su, è leggera, non rompo le scatole come una mantola, insomma te lo puoi fare anche da solo il lavoro. E ci mette il suo bel cavo. No, è interno il filo, cosa esterna? Praticamente all'interno sì, dovrebbe essere, non ricordo se è una mezz'onda o comunque un dipolo, in parole povere, una specie di dipolo, da. Non è niente di nuovo, però ha un ottimo comportamento. Guarda, la dovrei vedere com'è, perché 5 ottavi è un'antenna molto lunga, tipo un Mantova 1, e comunque non dovrebbe avere questa conformazione di alimentazione al centro, ecco, perché in realtà l'antenna è alimentata al centro, capito? Quindi mentre una mantro fa uno che è una 5 ottavi è alimentata sotto, questa qua è alimentata al centro, a metà antenna. No, ha un incastro. Insomma, io ricordo che erano incastro, si incastrano, si mettono, c'è la spaghiera e si stringe quanto basta perché la guarnizione faccia presa. Un casino comunque, sto cavolo di... come si chiama? Ma sto uscendo, sì, Gianni. Tu Gianni adesso sei accordato, giusto? Ma se stai accordato, vediamo un po' se aumenti il segnale. No, non sei più basso. Dai, comunque già lo risolviamo, non ti preoccupare. Vabbè. Non c'è problema, vabbè. Gianfranco, tu dov'è che non mi ricordo? Sei fuori Sassari, giusto? Sono in periferia. Io sono in periferia. Esattamente strato comunale, dai, sulla 127 bis, non so se sta per andare a Uri. Allora, vabbè, io c'ho un atterrato attaccato un come si chiama? Un ostino di Mantova, penso di una manco stazionale, non so, forse 1-2 o 1-3 saranno, boh. Sto uscendo con un filo di matto, va là, già va bene, dai. L'attacco del PL c'è stato fatto, è stato inserito un PL maschio nel radiale e poi si è usato uno di quelli femmina, come quello che c'è tu nella matto, va uguale. È stato attaccato a questa piastrina e poi io ho salato il filo e me lo sono passato dentro casa. Il gruppo si immagina. Tutto sommato, già siamo tutti vicini, dai, alla fine. Da qui non ci arrivo, da casa sì, perché a casa c'è la matto qua. Però adesso mi devo organizzare, mi serve un rosmetro decente. Vedo un po' se riesco, non spendere molto. Ce l'avevo la KP201, mi si è rotto. Praticamente c'era l'acqua a penzoloni, non si poteva fare niente. Non ci poteva fare più niente, l'ho smontato per vedere se riusciva a recuperarlo, ma niente da fare. Avanti Gianfranco. Sì, mi arrivi comunque con lo stesso segnale di Gianni, anche tu sei sul sì, la radio va più che bene. Gianni, finalmente ti possono rispondere perché ho trovato l'affare che era dentro l'antenna, non il dottino che era dentro l'antenna. Quindi loro stessi dicono che non è una 5 ottavi, perlomeno non è una 5 ottavi convenzionale, si comporta come un dipolo che è alimentato al centro e ha la bellezza di, io ho detto una fesseria perché pensavo che fossero due, quattro sezioni da 1,92 m di tubi telescopici compositi in fibra di vetro, con parete a triplo strato che la rende molto resistente e rigida rispetto alle altre concorrenti. Non necessita di radiali, in quanto è un'antenna bilanciata, che le scariche statiche quindi risulta in cortocircuito, ma quello anche la Mantova 1 ce l'ha. Risulta perfettamente disaccoppiata dalla sua struttura di sostegno, quindi pale, tralice e compagnia bella, con il beneficio di radiazione, con diagramma di radiazione diciamo circolare, molto orizzontale, dai. Quindi spara in basso, contrariamente a quello che dicono alcuni. La potenza del regge continuativa di 500 watt, RMS, target di banda di 4 mega e 5, questo è vero, è da 25,5 a 30, è più che tranquilla. Guarda, questa io conosco solo la Game Master, che poi ne abbiamo fatto altre versioni, non te lo so dire onestamente. Questa, vediamo se c'ho l'altezza, cioè tutto ci hanno messo lì fuori, 1, 2, 3, 4 sezioni, ecco, ti dico l'altezza, 180 km di resistenza, peso 3 kg, e l'altezza lo vediamo qua. Aspetta, un altro volo, aspetta. Sì, non è tornata, già attaccata. Vedo la tua, Giulio, ciao. Ecco, sì, ciao, ha bussato qualcuno, poi lo faccio entrare. L'ho fatto, allora esattamente, lunghezza approssimativa 7 metri e 3,60. Al bracket, diciamo, all'attacco, compreso d'attacco. Cosa vero e proprio è 6 metri 8,50. E siamo lì. Chi era che voleva entrare? Buonasera. Sono Don Franco, sono Gianni e ciao anche un altro amico. 6 metri 90 è lunga, già, ma molto ci vuole capirlo. Una lunga colonna quanto è? 11 metri, diviso per 8 e ne prendi 5 tratti e sai quanto è lungo la circostanza. È una mezz'onda 5 metri 50, no, è chiaro. Gianni, mamma mia, tranquillo che hai preso la tua antenna. Ciao Gianni, riprendi, Giulio. Ciao Giulio. Ciao Gianni, ciao Luca. Sì, te, guarda, ci vado, no, domani è sabato, no, domani no. Domani è lunedì. E allora non so cosa dirti. Non so cosa dirti allora già. Sì, hai già. Vabbè. Alla fine, sai cos'è già? Che magari l'antenna tua, quella vecchia, ti mettevi dopo i radiali, visto che stava funzionando bene, stava lasciando una troppo di anni e funzionava, capisci? Si poteva anche fare, si smontava di nuovo e si rimetteva come era prima. Si metteva su nuovi radiali, magari si adattavano quelli sono 5. No, e 4 i tuoi erano. Invece questi qua, quella della che ti ha toccato erano 5. Vabbè, se ne mettevano 4. Perché ce ne andavano 4 infatti. Si riutilizzava quella già. No, la molla era già rotta, te l'avevo già spiegato, che l'avevo messa in casso quella molla lì, era già rotta già, perché era tutta ossidata, si era spaccata. Ci metteva l'altra molla. Ho capito. Vabbè. Così allora, sì, le staffe alla fine sono buone. Interessante che entri nel palo, c'è quel diametro lì. Io già non mi preoccupo, e mi ho preoccupato, stavo solo, dicevo, interessante che entri nel palo, tutto qua. Andava ex. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Giulio, buonasera. Comunque tieni presente che c'è anche un'antenna, un trapezio subcoassiale che serve praticamente per l'alimentazione, c'è anche uno sub che serve proprio per l'impedenza, però quello è meglio non toccarlo, la metti come tardiva, con delicatezza, fai e segui le istruzioni. E poi la metti, in realtà ci vuole più dell'ora a farlo, ma è una cosa abbastanza semplice. E di contro, secondo alcuni, c'è il fatto che c'è troppa banda passante, è notorio che le antenne più banda passante hanno e meno guadagno hanno, questa ne addirittura va da 26,5 a 30, quindi in teoria, però in teoria dovrebbe perdere qualcosa. Poi bisogna vedere all'effetto pratico. Su per sicurezza, dato che va anche molto leggera, 3 kg rispetto a quel macigno della mantofa 1, non sono niente, ma puoi mettere anche più in alto in modo che non abbia influenza da parte magari di non so se ci sono antenne di quelle cose, perché le potrebbero dar fastidio. A me che ci passa anche il capo, onestamente questa cosa non l'ho riscontrata, però raccomandano di metterla un po' solitaria, capito? Ok, già. Ciao di nuovo, già tranquillo Gianni, che va bene in tutti i sensi, va bene in tutti i sensi, te l'ho già detto già 5 o 6 volte, ieri no perché non sono entrato, avanti ieri, l'altro ieri ancora, è un pezzo di fil, filo dentro una candela fresca che è sostenuto in punta, se no il filo non potrebbe rimanere dritto, lungo, da una brugola. Basta, tutto lì. Tu immaginati un filo che è infilato dentro una candela fresca, la monti e sei già a dama, sei già a posto in tutti i sensi: pelle stazionarie, anti-TVI, spara molto bene, tranquillo già, non ti preoccupare, lunedì se ne renderai conto quando la monterai con l'antenna, vedrai che rimarrai soddisfatto, riprendi. No, dalla lunghezza questa 5 ottavi è un termine che non lo so se si può usare su questa antenna, capito? Questa è più tecnicamente si dovrebbe chiamare dipolo alimentato al centro, verticale, capito già. Adesso ho anche le istruzioni che non avevo visto, che è in ultima pagina, e ti spiega come fare. L'importante è che tu non pieghi il cavo coassiale interno, devi stare attento che sia ben teso, tranquillo e senza pieghe. Questa è una raccomandazione che fanno, perché sennò ovviamente le cambi l'impedenza. Ok, già, sì, vabbè, ma è tanto semplice per capire quanto è lunga l'antenna. Se è una 5 ottavi, Gianni, devi fare sempre questo calcolo, sia per una 5 ottavi, per una mezz'onda, per un quarto d'onda, è semplicissimo. L'antenna, la lunghezza d'onda quanto è? 11 metri, 11 metri e 11, dai, 11,11, oh, diviso 8, e ti dà 8 parti. Di queste 8 parti tu ne prendi 5 e li moltiplichi insieme e ti dà la lunghezza della 5 ottavi, che è pari a 6,90 m, 6,85 m, siamo lì. Capito? Se è mezz'onda, è lunga 5 metri e 50, perché la mezz'onda 11 metri diviso 2 fa 5 metri e 50, un quarto d'onda 2,75 m, 2,75 m per 4 fanno 11 metri. Gianni, dopo 40 anni di frequenza ancora non hai imparato queste cose, mamma mia, vabbè dai, ma tu sei fidato, sei tranquillo, ma tu sei spaventato che non hai fatto un buon acquisto. Tranquillo Gianni, hai fatto un buon acquisto, meglio della mantova, perché almeno non hai la rottura di scatole dei radiali, e questo te lo posso garantire. Avanti Luca. La mantova è alta, 6,90 m, sta tranquillo, 7 metri, siamo lì, tranquillo, così. Stai tranquillo già, quando sei fatto bisogna che ti faccia un po' di reazioni di allungate l'onda, se queste cose qua. Ecco, questo è il problema dei cibi, è questo, che non si parla mai di elettronica, il che significa che diciamo solo fesserie e non diciamo cose interessanti relative alla nostra passione, che è la radio. Vabbè, comunque, non fa niente. Avanti Gianfra. Sì, guarda, poi comunque la cosa importante è la resa alla fine, cioè è inutile stare lì a dire buona non è buona, è questo non è questo. Può essere cattiva se uno la piazza male, magari vicino ad altre antenne che se le rovinano le polarizzazioni, cose di questo genere, ma se l'antenna è piazzata bene, è libera sull'orizzonte, non c'è particolare cose che le danno fastidio, un'antenna sicuramente è un'ottima antenna, insomma questa la avrei tolta, mi sembra evidente. Arretta al vento bene, qualcuno dice che si spezza al centro, qualcuno dice che non si spezza, se tu dai retta a tutte queste cose, guarda, come si dice, in sostanza si fa Luca Baccacco. Per me è una buona antenna, per un semplice motivo, che quando c'era la mantova 1, ad esempio, c'era sempre QRM, QSB, tutte le scariche erano la sua, per carità, un'eccellente antenna l'ho sempre avuta, ne ho avuto anche più di una, credo che ne abbia avuto due o tre, perché sono durate anni, un'antenna che ti dura veramente la mantova fino a sradigarsi di brutto. Questa qua è ricoperta di fibra di vetro, anche se dovesse rompere nell'ipotesi da poi riparare in tutti i modi, non si può rompere come la 91, ecco, questo è molto importante. Anche se si rompe, per dire, per cause di qualunque tipo, vento, tornado, tromba d'aria, terremoto. Adesso gira gira, che macchina è meglio la 91, va bene. Le elettriche, se te la rifai, come ha fatto 7000, che lo stesso è un'antenna robustissima, ma quel tornado che c'era stato tanti anni fa con la tromba d'aria fortissima, ma l'ha spezzata, quella anche un pezzo di Mantova 1. E quella lì ci metti un pezzo di canale elettrica e fatta, anche altro cosa te ne frega. Quindi l'antenna sotto certi punti di vista è indistruttibile, non ti mettere quel problema. E come vedo, ripeto, io mi posso permettere il lusso di mettere anche lo squelch, e nonostante tutto le stazioni lontane riescono a sbloccarlo. Quindi penso che può essere comunque soddisfatto, non prende le statiche, cosa non da poco, ed è più isolata anche rispetto, se vogliamo, alle varie scariche che ci possono essere. Ecco. Buonasera, adesso è andato a salutarvi, vi sto ascoltando da poc'anzi. Vabbè, io non voglio, per carità di Dio, né dire né fare. Io ho iniziato nel 1987, quando sono arrivato qua con la Mantova 1, e grazie a Dio siamo al 2019, ne ho cambiato due per mia scelta, perché volevano cambiate, ma le ho cambiate intere senza che si spezzassero e senza che funzionassero, le ho cambiate perché erano da cambiare. Ok. Il fatto, come dice qualcuno, non sussiste, nel senso che la Mantova 1 è storica per noi CB, per noi che abbiamo questa passione della radio. Questa Game Master è un pezzo di tubo che, se sbaglio, Giulio mi corregge, facilissimo da fare, non ha nulla, è un semplice tubo con questo cavo messo lì che se la stanno facendo pagare 160 euro, mi sembra già un'esagerazione. Che poi resista, non resista, vada bene, non vada bene, io non voglio dire niente, perché l'antenna, intanto che a me non piace, con tutto rispetto per chi ce l'ha, ok, è un palo messo lì che non dice niente, però rispetto per chi ce l'ha, ribadisco, è una cosa, è una scelta, a me non piace. La Mantova è Mantova per conto mio, e sono convintissimo al 100% che non ci sarà mai nessuna antenna, dico nessuna antenna per la 27, che possa fare il lavoro che ha fatto la Mantova e che sta continuando a fare la Mantova. Non aggiungo altro, poi ognuno è libero di dire, fare, credere e piacerle o non piacerle le cose. Questa è la mia opinione, punto. Mi raccomando, questo è un altro discorso, ma stiamo parlando di un'antenna che lui si è dovuto acquistare, intanto siamo qua. Tieni presente che la Mantova è fallita da 7, 8, 10 anni che non sta più costruendo, sicché non è possibile acquistare una Mantova 1, non la trovi tanto. Ah, ce ne sono quanto ne vuoi. Italia col telefono, nessuno mi ha detto no, abbiamo qualche Mantova turbo, tanto è vero, io avevo fatto arrivare quella, ma ancora oggi ci sarà forse ancora la Mantova turbo, forse c'è ancora, si troverà, non lo so. Questo non significa che la Game Master non sia una buona antenna. Poi, se parliamo di materiali, hai ragione, vedere una Mantova con tutto il lavoro che c'è e vedere una canna da pesca, chiamiamola così, una canna da pesca con una bobina, un pezzo di filo, naturalmente chiunque direbbe, ma è come fa questa a costare 160 euro e quest'altra costa 145 euro? Hai ragione, perfettamente ragione, ma non è su questo fatto qua che dobbiamo ragionare che quell'antenna c'è tutta una programmazione, tutto uno studio fatto con vari strumenti professionisti, professionali di altissima qualità, per cui loro ti stanno facendo pagare non il prezzo del filo, perché il prezzo del filo lo sappiamo quanto può costare, ma ti stanno facendo pagare il progetto. Ecco qual è la differenza dell'assio. E l'assio non credo che sia così un'azienda stupida, per il semplice motivo che fa delle ottime antenne simili a quelle della Mantova, però quella la fa pagare di più, e non credo che siano così stupidi da dire faccio pagare un pezzo di filo 160 euro e faccio pagare un 827 addirittura 150 euro, 135, una cosa del genere. Non credo che sia così stupida questa azienda. Se l'ha fatta perché c'è un problema di costruzione. Io la penso così, poi che l'antenna sia stata un'ottima antenna, nessuno lo mette in dubbio. Io ce l'ho, se non vado alla mia, lo ce l'ho. La porta solo per il motivo che ti avevo detto più volte. Mi fischiavo nei radiali, quando c'era molto vento mi dava fastidio la notte, e allora l'ho tolta, basta, tutto lì. Avanti, già sta per salutare Claudia, mi è appena entrata. Scusate il passaggio lunghissimo che ho fatto, avanti, già sta. Sì, buonasera Claudio, ben ascoltato. In verità Giulio ti devo dare torto. L'assio indubbiamente fa ottime antenne, ma che dica che ci sono particolari eccetera, le leggi diciamo così fisiche e quindi anche di costruzione delle antenne sono sempre le stesse. In realtà la Mantova è un'antenna vecchia, come è vecchia la Game Master, non hanno scoperto assolutamente niente di fabbricazione, anzi volendo, adesso che l'ho visto il mio volantino che è proprio identico a quello all'antenna che ha preso Gianni, potevano che so metterci delle ghiere, ad esempio come ce l'ha la 510 della Diamond, potevano, invece vero che c'ha delle fascette, funzionano indubbiamente, ma niente di nuovo. Il prezzo è esagerato perché è la solita novità, è rimasta novità, sostituisce in qualche modo forse la Mantova oppure ne è un'alternativa, però indubbiamente per i materiali il prezzo è sicuramente un'esagerazione. Allora guarda, questa antenna occhiometro le costerà forse un quarto o un quinto addirittura come materiale, quindi niente di eccezionale. Ripeto, io ce l'ho, è buona l'antenna, non le si può imputare niente, fino adesso è di limpia di funzione, però il costo è effettivamente esagerato, però la Sirio si fa pagare anche il nome, d'altronde lo fa anche la Diamond, quindi sono in tutto. Però non parliamo di software per piacere, perché non io me ne occupo anche di software, ma non mi faccio ridere, ecco, questa cosa. Loro hanno rispolverato qualche vecchio progetto e basta, non hanno fatto niente di particolarmente eccezionale, ecco. Comunque ripeto, se serve di conforto a Gianni, l'antenna va bene, c'è basso QRM per le sue caratteristiche, ripeto, che non sono innovative assolutamente, e va bene, quindi quando la provi io son certo che ne sarei più che soddisfatto, soprattutto perché è leggera, se devi fare qualcosa non c'è bisogno di chiamare l'esercito ad aiutarti. È tutto lì, non c'è altro da dire, tutto l'altro è tutto fumo, c'è chi preferisce la Mantova, va benissimo, e c'è chi preferisce questa, sono questioni di scelte, come uno che preferisce vestirsi di rosso e uno che preferisce vestirsi di blu, niente di particolare. Poi le rese, quelle lo sappiamo tutti, variano moltissimo, ma veramente molto, a seconda sia dell'installazione sia della posizione, questo non c'è un po' di dubbio. Riprendi Gianni. Scusate, dai, posso? Posso? Ok, dai, io chiudo, vi saluto, buona serata, buon proseguimento, non bisticciate per un'antenna, tanto una vale l'altra. Io sono sincero, preferisco di più, perché ormai ho avuto sempre la Mantova, diciamo, a me piace come antenna e posso dire che mi ha dato molte soddisfazioni, molte. E poi ci sono le antenne e antenne. Come dice Claudio, prezzo è meglio la mantova, perché alla fine stai pagando un'antenna troppo cara, che poi bisogna vedere le regge come sono. Sono come quelle della mantova, sono superiori comunque sia. Comunque già appena arriva, dai, la piazziamo e vediamo un po' la resa com'è, dai. Riprendi tu, buona serata a tutti, ciao anche a Claudio, ciao. Scusa un attimo, ma io non lo so se sto parlando l'italiano o se sto parlando l'arabo. Io ho detto che come... Oggi è un bel mamì. Bellissima, perché è un pezzo di filo con una canna... Non mi viene a ringogliare il discorso. Ma indubbiamente, questo ho detto, io sto parlando l'italiano e mi sembra che mi sono spiegato anche molto chiaramente, per cui è inutile che la gente possa continuare a esistere, lo so anch'io, che la volta è mentalizzata, perché? Perché la volta è un'antenna che di 25-30 anni, questa è appena uscita e quando uno vede un pezzo di filo, giustamente dice, ma cosa ha visto la bucaria, la gente può pensare quello, però che in realtà la volta ma l'antenna funziona ugualmente bene, poi se funziona un po' meno o un po' di più della volta, ma questo è da verificare, è chiaro, è ovvio. L'unica cosa che io non sono d'accordo è il costo, perché è un'antenna che vale fino a 30 euro, perché io ho speso 30 euro per fare quell'antenna lì e funziona bene, con voi stesso me l'avete confermato più volte. Ho speso 30 euro e 160 euro sono tanti, tantissimi, mentre invece la manta per la giornata 145 euro la devo pagare. Non l'ho buttata, la potevo dare anche a Gianni, magari me l'avrebbe anche pagata Gianni, ma no, no, me la tengo e basta. Io ho detto questo, che come valore non ce n'è, perché non ce n'è di materiale, però c'è tutta una progettazione, poi che sia stata rispoverata la progettazione di 20 anni fa, io oggi faccio stare una novità e loro se la fanno fare giustamente come ha detto Gianfranco, perché? Perché è una novità, è ovvio. Ho capito, io non ti sto dicendo niente, io sono espresso il mio pensiero, poi a me non mi interessa, può costare anche 500 euro per dire, poi non lo so, quando si piazza si vede, ma è una bella antenna, io non so come, cioè l'ho visto dalla foto così, però vediamo quando si piazza e poi vediamo le caratteristiche, se Gianni ritorna come era prima o se magari poco più basso, che magari è molto superiore, non lo so, quando si piazza si vedrà, dai, io vi saluto che mi stavo aspettando che ho appuntamento, ciao a tutti e buona serata, avanti Gianni. Sì, io riprendo con la speranza di non sorprendere a nessuno, ciao Luca, alle prossime. No, io chiudo questo discorso perché ripeto e ribadisco, con tutto rispetto per chi ha comprato quell'antenna, ok, nessuno è stato stupido, ok, da potersela costruire, vedi Giulio che ha fatto un capolavoro, ok, a differenza di qualcuno che ha usato dei materiali così e così, però Giulio ha fatto un capolavoro perché ho visto le foto, veramente un capolavoro. Non posso negare che secondo me autocostruita in quelle condizioni è uguale a quella che tu compri, secondo il mio punto di vista, attenzione, questo è il mio parere, io non mi sposto dalla Mantova, posso, ho un parco antenne sul tetto che è da radioamatore, quindi ho consultato una persona come Marco Scorpio, per non dire il nome attivo, che penso che sia l'unico in possesso dei requisiti per la sua esperienza fatta proprio nel settore antenne, in acquisto di antenne, con una delle più grandi case costruttrici che penso in Italia non ce ne siano, che è la PKW, perché ha dei materiali molto molto robusti, quindi io essendo un esperto ho consultato lui e me ne sono trovato molto bene e va bene così, quello per quanto riguarda la Mantova, per me è la migliore antenna al mondo, chiunque mi possa dire il contrario, non ce ne sono problemi, la Game Master è la Game Master. Ora voglio fare una domanda a Gianni, perché attenzione Giulio, non è assolutamente vero che le Mantove non ci sono, Gianni ha trovato un sito dove c'è sono ad un prezzo equo. Quindi la mia domanda è questa, Gianni: se tu sei titubante o hai dei dubbi sul tuo acquisto, visto che l'hai trovata, perché non ti hai comprato la Mantova 1? Ok, con i radiali in fibra, la Mantova 1, i corvi le mettono la faccia nel sedere, i corvi, gli uccelli, chiunque si appenda, ok, perché da me ci sono foto dove era completamente piena di uccelli, di storni, ok, ma non uno, ma migliaia, ed è sempre lì, non è mai caduto un radiale, mai niente. È chiaro che da te i radiali alluminio non vanno bene, ma se tu ti compravi la Mantova 1 o la Mantova 5 nuova con i radiali in fibra, la mia domanda è sempre quella: perché non l'hai fatto e sei andato sulla Game Master? Perché ti vedo titubante su questa cosa. Di un ragazzino, probabilmente che io ho telefonato, senza esagerare, ho telefonato almeno a 10, 12 e forse anche più negozi in tutta Italia quando io ho preso la Mantova 1 e volevo la Mantova 5, non l'ho trovata da nessuna parte. La Mantova 1 ho chiesto anche, non c'era da nessuna parte. Se poi c'è qualcuno che in Inghilterra, non lo escludo, io questo non lo escludo, non posso sapere io se ce l'hanno o meno. Mi hanno detto no, si trova anche Mantova Turbo. Allora alla fine una ditta che sì, provincia di Torino, o mi ha mandato la Mantova Turbo, tutto lì 145 euro, proprio dicono, perché vede bene che a un certo momento, e cosa devo dire io? Lo stesso o quello della CBC Tonino, sono andato da lui e ho detto, ah, se per caso hai una Mantova, tu, una Mantova, un'antenna Mantova, o uno, o cinque, o tubo, fatto, sembra fa ridere, ma ha detto, sì, ma non lo sai tu che la Sigma è fallita da almeno 10 anni, o meglio ha chiuso e non sta più costruendo. Quando siamo di Tonino, di Sarra Secca, per dire che anche lui mi aveva confermato, perché l'ho cercata dappertutto, non l'ho trovata. Poi, giustamente, tu mi dirai, ve ne stiamo vicino l'uno all'altra e chiediamo a qualsiasi persona, anche ai bambini, costa 150 una e 150 l'altra. Chi chiedi? Uno chiede la Mantova, perché quando vai al lavoro mi sembra che sia normale che uno possa scegliere la Mantova a qualità di prezzo, perché come mai una danna alla becca, un pezzo di filo, in tutto ho preso 30 euro tra la canna alla pesca e il filo coassiale, con il filo elettrico, quello ce l'avevo già io, non è un problema. Permetti, sono riuscito a realizzare l'antenna Game Master, che naturalmente non è originale, però ho fatto le misure della Game Master originale. Perché? Perché io avevo preso l'antenna di Sandro e nel frattempo ne ho ricavato tutte le misure. Dopodiché è venuto mio nipote, che anche lui è CB a Carbonia, e l'ho data a lui, l'ho data a quella mano, e me ne sono pentito, sinceramente io non mi sento mai di niente, ma mi sono pentito, che poi alla fine me la sono convinta a costruire. Però avevo già telefonato a questo ragazzo e mi ha detto, dice sì che te la risposta, e cosa me le dai? E tu non ti preoccupare, riportalo. Probabilmente quando antenna me la riporta, e io tra un po' di tempo, non so quando, la prova Mantova da Game Master originale anch'io, quella che aveva Sandro, che era già mia, 100 euro, stata tra l'altro. Per cui, vedete bene che a questo punto, cosa volete che vi dica? Scusa Gianfranco, devo chiudere. Giulio, io devo chiudere perché devo uscire. Giulio, tu non hai, è fatto ridere da me, tu non hai preso la Mantova, la Game Master è presa la misura. Tu hai fatto un capolavoro, tu hai la Game Master, perché io le foto che ho visto tue le ho confrontate con la Game Master originale ed è uguale, hai fatto un capolavoro con 30 euro, tu hai fatto un capolavoro, credi a me, hai fatto un capolavoro con 30 euro e ti ribadisco che il tuo segnale è quanto è quello che tu avevi con la Mantova a 6 metri e 8 metri di altezza. Hai fatto un capolavoro con 30 euro. Il discorso che noi abbiamo e possiamo stare sino a domani è sempre quello, che quell'antenna, che ci sia una progettazione, che Giulio Dollaro ha rifatto uguale, è uguale, dico uguale e sottolineo uguale, precisa, identica, con lo stesso materiale, con lo stesso avvolgimento, con gli stessi colori, l'antenna che hai tu, per me è una Game Master. Se tu non me lo dicevi quando io l'ho vista montata da te, se tu non me lo dicevi, perché me l'hai detto dopo, io pensavo che era l'antenna che avevi acquistato da Sandro, ok? Questo ti sto dicendo. Quindi ribadisco ancora una volta che per la costruzione che c'è, per la aggiungiamo la progettazione, aggiungiamo quello che volete, è un'antenna che io non comprerò mai perché è troppo cara, mi capisci? Perché so che è fattibile fartela da te come hai fatto tu, hai fatto un capolavoro. Questo è il mio concetto, attenzione, senza aggiungere altro, è un'antenna che funziona benissimo, che va benissimo, a me non piace, però è troppo cara per tutto il contesto che c'è, ok, non possiamo stare sino a domani parlando, io per quella cifra preferisco una Mantova, al di fuori di tutto quello che stiamo dicendo, tu hai fatto per me una Game Master, punto e basta. Allora dico che siccome nessuno è stupido, questi con la sua progettazione ti stanno dando un'antenna che non si vale il prezzo, ok? E qua chiudo il discorso, punto. L'ho detto più volte anch'io, e guardando, ma l'antenna non vale i soldi che chiedono, ma questo mi avete miscelato abbastanza bene. Certo, non si può paragonare al lavoro della Mantova con... è bella quella di Giulio. Un bastone praticamente, a canocchiate con quattro elementi, inseriti l'uno nell'altro per appena 10 cm, non di più, e dunque, però io ne ho ricavato, io non ho fatto nessun capolavoro, ho fatto semplicemente, l'unico capolavoro che ho fatto, sai qual è? È il rocchetto, dove ci ho fatto un avvolgimento, che me lo sono fatto in falegnameria, ho messo nell'albero della toppia e mi sono tornito esattamente il rocchetto, tu lo vedi e sembra quello originale della cosa, poi avevo un piattello che ne avevo tolto dal compressore che avevo prima, l'ho forato e ci ho attaccato il PL da pannello, ci ho attaccato e mi è venuto praticamente come quello della Mantova Turbo, però in realtà io le misure non le ho ricavate da loro, ho copiato le misure e ce ne ho anche qua, porca miseria, che non posso leggere, ho portata di mano, sono sempre qua. Allora partendo dalla base, cioè dalla bobina in su, sono 185,5, poi c'è un altro pezzo 149,5, poi abbiamo uno stub di impedenza che è 62 cm, poi abbiamo un condensatore che è di 9 cm, poi abbiamo un filo elettrico unipolare che è di 3,45 m, e le misure ce le ho portate in mano, se vuoi te mando anche la fotografia, per dire, l'ho copiata, io non ho fatto niente di particolare, ho solo copiato le misure, basta, l'unica roba bella che ho fatto è il rocchetto, dove ci ho fatto l'avvolgimento dalla cassetta 55, e poi l'ho camuffato, mettendo il cilindro rosso, una volta che l'avvolgimento è stato fatto, l'ho ricoperto di nastro rosso, di quello largo da 1,5 cm, mettendolo laggiù, da fuori, sembra la bella Game Master originale, ecco, quello sì, basta, ma niente di particolare, non è che ha fatto miracoli, no. Avanti, Gianfra, però qua comunque si sta chiudendo, ti saluto adesso, non so se puoi rientri, oppure, al limite, ci sentiamo domani, vai Gianfra, scusa per il passaggio lungo. dopo che non ti stiamo chiamando in casa, la faccia già fa. Di niente, ciao Claudio. Buona serata. Niente, avete detto tutto, quindi non c'è più niente da dire. Poi, ripeto, per chi come me se l'ha comprata invece, c'è gente che non c'è il tempo di farla, perché, ripeto, l'antenna non è nuova, perché prende spunto da tante altre antenne, oramai già, penso, negli anni 30, anni 40, tutte le antenne sono state fatte a parte quelle a microonde, e anche di lì stava già lavorando. Però le leggi fisiche quelle sono, può cambiare poco la forma, ma la sostanza è sempre quella. Quindi niente, progettazione ce n'è ben poca, perché si vede che l'antenna non ha necessità di grande progettazione. Hanno fatto tutto quello che l'hanno per primi testate, e non era certo una cosa a riugi. Niente, non è una canna da pesca intesa nel termine vero, ecco questo, no? Perché per canna da pesca usualmente tutti intendiamo lo stilo col filo che passa o dentro o fuori, e col famoso un per farne una multibanda. Poi se qualcuno la vuole chiamare anche quella canna da pesca, la chiama così, però non lo è. E poi niente, se uno c'è il soldi è giusto che li spenda, e niente, l'antenna è marcata a Sirio, quindi presumo che non sia andata in fallimento, dato che è fatta in Italia. Non c'è altro da dire su questo. Poi, come dire, quando arriva la prova, siamo tutti felici e contenti. Vero Gianni? Non può essere originale, però io sono riuscito a rispettare. camuffato con il naso rosso largo un centimetro e mezzo. Ci ho fatto un giro di naso rosso, tutto questo perché? Perché la bobina della Game Master usa il cavo rosso. Ecco, sono in realtà è facile da fare, la può fare chiunque, anche un ragazzino la può fare. Poi del resto mi l'ha detto a Franco del Montepasso. L'ho detto a lui, guarda così e così, apri il computer, ci sono tutte le misure, vai su questo sito, è andato, dopo due o tre giorni si è fatto l'antenna anche lui. E lo vediamo come esce Franco, esce benissimo, si che la può fare chiunque, qualsiasi persona. Dai, già. Sì, vabbè, ma è sempre lo stesso discorso. Se non l'antenna se la vuole comprare, se la compra e basta. Io me la sono comprata, ad esempio, a Gianni se l'ha comprata e ho fatto bene, secondo me. Non stare via, perché c'è poco tempo lì a perdere tempo, perché poi sono antenne banali. Mi danno ma tutte quelle HF da 27 e poi non le sappiamo. Di lì, ridicola in paragone, che ne so, con la precisione di quelle antenne che sono. Io ti posso garantire, perché anche qualche mese fa ho dovuto fare un'antenna per i 1020, anzi per i 1090, e la cosa non è così banale, no? Perché il relatore ti dava picche, la posizione ti dava picche, il caso ti dava picche, e a un certo punto hai detto ma vai in quel paese, l'ho comprata e mi è costata anche di più, devo dire, in proporzione, l'ho pagata 60 euro. Ma in proporzione che era un tubo in plastica ma calibrato al millimetro, mi è costata di più anche dalla Game Master, perché hanno la Game Master, se non male sono 7 metri di antenna di fibra di vetro, che mi auguro sia buona, ma dovrebbe essere buona, ma quella lì è proprio un tubetto di plastica con dentro un pezzettino di rame che però è al millimetro, e il cavo deve essere conforme così come i connettori e tutto. Quindi stiamo parlando di giocattoli. Quindi lasciamo, ci facciamo una risata, è stato un buon discorso, però insomma, lascia il tempo che trova, riprendi già. Fatto benissimo. Tu pensa, Gianni, che di quelle bobine di legno le hanno fatto a quel tipo lì, le hanno fatto almeno 3 o 4, una domenica, un sabato mattina, c'era lui e c'era anche Gian Maria, di falegnameria, eravamo tutti e tre insieme, mi sono messo e gli ho tornito anche a lui 3 o 4 di quelle bobine, forse anche 5, adesso non me lo ricordo più, per dire, no? Guardate, era un'idea, ne poi le ha usate, non lo so, questo non lo saprà lui, ma non mi interessa, ci mancherebbe altro, glielo ho fatte volentieri quando eravamo amici e basta, glielo ho fatte e basta, ma niente di particolare, se mi hai capito di che sto parlando già. Ripeto, leggerissima, per lavorare è una fesseria, perché leggera a lavorare tranquillamente. Poi il discorso che si era aspettata, a Sandro si era aspettata, certo, lo so anch'io, probabilmente Sandro sarà venduta per quella, perché io l'ho comprata a Sandro, non è che me la regalata, quanto ci sento io lo dirà, per dire, no? Si era aspettata, perché lui, col filo di nylon, quello che si usa per pescare, non so di quale sezione, eccetera, l'aveva ancorata su in alto, proprio a un metro dalla parte finale dell'antenna. Il vento è talmente forte e ha spinto al centro, gliel'ha spettata, tutto lì. se tu non se non gli metti nessun tirante, l'antenna oscilla tranquillamente da una parte e dall'altra e funziona e non si rompe. Questo me lo posso garantire. Avanti, Giotto. Il fatto di mettere un tirante e mezzo è veramente una cosa addirittura in punta, è proprio è come spezzarla con la mano in antenna, anche con un vento molto debole, perché mai legate le antenne in punta, che senso ha? A parte che quando piove anche la semplice brina poi ti varia tutto il diagramma di radiazione, o peggio ti crea anche di radiazioni e complicazioni varie, e poi cambia tutto l'ordine delle forze che si scaricano sull'antenna, e finché si scarica su un oggetto che si può piegare è un po' la favola che c'era tra l'albero e l'erba, che dura di più, un filo d'erba o un albero? Probabilmente al vento sicuramente il filo d'erba, perché quello si piega e poi ritorna dritto, mentre l'albero l'abbiamo visto cosa succede con il vento fortissimo, tutto lì. Ok, piuttosto se bisognerebbe interessarsi più che altro dei cavi. Che cavo usi tu per l'antenna, Gianni? Io uso il cavo perché quando ascolta, il quanti metri? No, io per antenne così basse di frequenza spreco la C1000 direttamente, perché non io sono distante dalle antenne una trentina di metri, cioè 30 metri in orizzontale e poi altri di norma altri 20 in verticale di tubo. Quindi devo usare per forza dei cavi molto performanti. Quella è cosa che sanno anche i bambini, sull'antenna non si mettono tiranti, si mettono sul palo magari, però non troppo tesi, perché se no poi si scarica tutto sull'antenna di nuovo, capito? È come la gente che mette, perché quando tu fai le antenne con i tubi, perché c'hanno tanti tubi, perché le vedi messe anche tra lici con tanti tiranti nelle varie sezioni? Perché devono impedire che il carico si concentri tutto o in mezzo o in alto o in basso, deve essere cosiddetto carico ripartito, in modo che le forze siano sostenute da tutto il palo, non da un pezzo solo, perché sennò lo butta giù subito. Quindi è così, io ho scelto la soluzione quasi senza tirante, in modo che l'antenna oscilli parecchio, così oscilla parecchio e non succede niente. Vantaggio della Gen Master, siccome dentro c'è un coassiale legato praticamente un tutt'uno, l'antenna si può anche spezzare, però non cade niente perché rimane battendo l'uno in ogni caso, quindi il problema non si pone. Io l'ho lasciata libera perché la mia non poggia su un muro o su delle staffe che si potrebbero, diciamo così, in qualche modo sganciare, inclinare. E io ce l'ho proprio su un ponteggio e quindi da lì è attaccata con i tubi con il turbidalmine, con gli attacchi a morsetto o da ponteggio, quindi insomma, giusto un tornado da 200 km può fare danno, magari rompe tutta l'antenna, però quelli lì rimangono fermi, quindi il problema non si pone di tirare. E niente, quindi si è sicuro anche sotto quel profilo, se si stessa non cade. Anche quello è un vantaggio, perché se si dovesse spezzare di arrivare peso l'uni e non perché c'è il filo dentro, non è che si spezza il filo. Dunque, siccome sul punta c'è una brugola, un morsetto, in poche parole, e il cavo rimane teso proprio a fare l'effetto di questo morsetto che rimane in punta per tutta la lunghezza della canna, diciamo, no? Per cui anche se si dovesse rompere, viene male per dolore, ma non cade mai per strada. A differenza, ad esempio, della mantova, che se si rompe la mantova, come è successo in questi giorni scorsi a Pino, mi sembra che te l'ha anche detto l'altro giorno Gianni, mi si è rotta la mantova proprio nella base, cioè lo stilo centrale ha spezzato il boncone dove va infilato lo stilo, che è bellissimo, e quello è abbastanza robusto. Ripeto, la mantova per me, io ho sempre detto, come costruzione meccanica e anche elettrica in un certo senso, poi dicevo perché, è di grandissimo valore, non ci sono dubbi, la mantova è stata costruita bene. L'unico problema che io ho ritrovato nella mantova è il fatto che non era, dopo un po' di tempo, più cortocircuitata, perché c'ha un ancoraggio della bobina che c'è nella carrozza, in basso alla base, c'è una bobina di filo smaltato, cioè di quel filo che serve per fare le induttanze, le bobine, che sono collegate in una maniera molto bizzarra. Per cui non c'è sempre il contatto fisso con la massa e allora non è più cortocircuitata. Però detto questo, l'antenna funzionava perfettamente, aveva la setta resa, uguale, che tranquilla, non c'erano di problemi in quanto a quello. Perché? Perché strutturalmente è una grandissima antenna, ma purtroppo non la stanno più costruendo, e quello è il problema. Dunque bisogna adeguarsi. Quando non ci sarà più una mantova, per chi ce l'ha, sarà costretto a comprare un'altra antenna. Tutto lì. Poi naturalmente sceglierà quello che vuole comprare. Allora si già sta. Comunque si trova, non so, non è questo problema dell'antenna, per 27 sulla la mantova, anche la mantova cos'era? Era un insieme di tubi che se tu c'è la possibilità di comprarti, anche se costano parecchio cari quei tubi in alluminio, avio praticamente, la puoi fare benissimo, non c'è nulla, che cosa c'è sulla mantova? Solo perché c'aveva la bobina, quelle due bobine, è una cavolata, dai. Quindi non so, ma puoi fare anche più robusta e più duratura, perché la mantova c'era la brutta pecca anche di ossidarsi. Piano piano quello lì poi non la smontavi più neanche a ruccio, ne avevi voglia di mettere grasso, ma siccome c'era il sistema in casco se lo portava via dopo qualche anno, e l'alluminio è tremendo, si incolla tutto lì. Niente, cosa volevo dire? Non lo ricordo più. Comunque, come antenna, io avevo costruito un'antenna che non è con un sistema tipo canna da pesca, però era comprato una canna da pesca che era da appena un mese, infatti ce l'ho ancora, perché quella sì costa cara, costava 100 euro credo, alta 12 metri, però era fatta per lo scopo per fare delle antenne, per estendere dei dipoli, ma con 12 metri qualcosa combini, no? E ce l'ho ancora e quella va bene. E telescopica, si allunga, sono 12 metri, una cosa abbastanza. Io avevo atlete, però altro che pesci, andare a pesca, riprendi già. fini, eccetera. Però il montaggio quello lì dell'altro lato è che c'ha la raggiera, puoi comprare la parte e la raggiera, ti sostiene i radiali, quello sì, lo so. Ripeto, ancora una volta, per me la mandroba è stata costruita benissimo, non bene, benissimo, a parte le fascette che sono di lanierino, che io infatti le avevo sostituite con fascette in acciaio inossidabile, i bulloncini che sostenevano i radiali, lo stesso, quelli li ho tutti sostituiti con il bulloncino, perché è passante, no? Dalla carrozza al radiale, che è bucato, attraversa il radiale e poi c'è da dire una parte alta, anche quello li ho sostituiti tutti quanti con i bulloncini di acciaio inossidabile, perché se no non sarei riuscito più a smontarla. Infatti quando l'ho smontata proprio con la minima difficoltà, anzi con nessunissima difficoltà, e dunque se no roba nuova, già ti ho mandato anche il coso, non la fotografia, per cui vedi bene, l'ho tolta solo ed esclusivamente perché durante la notte, quando soffiava vento forte, mi dava fastidio questo fischio che facevano i radiali, perché per me erano i radiali che fischiavano. L'ho tolta solo esclusivamente per quel motivo lì, perché alle 2, alle 3 del mattino mi dava fastidio quando c'era vento forte. Fischiavano una cosa continua, insomma, che il vento durava due giorni fischiava. E dunque per quello che l'ho tolta, se no non avrei tolto la mano, ma non sono così scemo. No, l'ho tolta solo esclusivamente per quello. E allora nel frattempo, anzi prima ho incominciato, e adesso voglio fare una mandra ma tipo quella con una canna da pesca. Ho fatto quella, l'ho piantata nel terrazzo, l'ho piantata. Tra l'altro, sei mesi più in basso di quando c'era la mandra tubola sei mesi più in alto rispetto a dove è adesso, questo pezzo di dipolo, perché questo è un dipolo cortocircuitato, ma è sempre un dipolo alimentato al centro, come ha detto appunto Gianfranco. E l'ho lasciata lì, ho visto che ha funzionato al primissimo momento, ho messo due gaffe e l'ho installata lì, nel terrazzino. Ci arrivo con le mani, arrivo, sollevo la mano e sbitto il piede, sentiti no, non c'è nemmeno il tubo, è un pezzettino di tubo che c'è, sicché ti puoi immaginare. E portate le mani, ho visto che funzionava bene e l'ho lasciata, e siamo già due anni, e sto andando avanti sempre con quella. Allora, visto e considerato che quella andava bene, ho tirato giù la mano, ma ecco come è successo, niente di più, ma solo per quel motivo lì, se no non togliamo la mano, ma non ero manco, no. Ma mi dava fastidio il vento, ma notte, alle 2, alle 3 di notte, mi svegliava il fischio dei radiali, solo per quello l'ho tolta. Avanti, no, io invece ce la butto proprio con la mantova, perché ci avevo messo un tubo di quelli di Balmine, che vanno benissimo in campagna, ma in appartamento è durato un giorno praticamente, poi l'ho dovuto togliere perché siccome c'ero sotto io, e meno male c'ero io sotto, insomma avrebbero sparato. Di notte quando c'era un po' di vento sentivo questo aereo, di giorno non li senti i rumori perché c'è traffico eccetera, ma di notte che c'è silenzio sentiva questo aereo decollare. Io ho detto ma dove diavolo sta andando questo aereo che è qua sopra, e sentivo alla fine mi sono avvicinato, cacchio questo è il tubo che è entrato in risonanza, hanno rotto di subito tutto quanto, ci metteva male il tubo fino, buonanotte. Sì, appunto, non so che io l'ho tolta solo esclusivamente per quello, l'ho tolta solo esclusivamente per quel motivo lì, se no non togliamo la mano, però, che è tallata bene, benissimo, con un palo lungo 6 metri, costruito apposta, intanto molto robusto, tant'è vero non l'ho mai messo tirante io nel palo, nemmeno nel palo, mai. Mi avevo comprato i tubi da Marchese, ho preso i lami in acciaio inossidabile e i bulloni in acciaio inossidabile, ho forato il palo e li ho saldati i lami al palo e ho costruito il cannocchiale ho costruito, ho messo 3-4 elementi per la verità, però il quarto non l'ho tirato mai su, il quarto ornamento è rimasto incorporato dentro il penultimo, cioè l'altro sotto, perché se no sarei salito addirittura 8 metri, invece lo tiravo su solo di 6 metri e basta, che poi tra l'altro era messa nella parte più alta della casa, perché adesso c'è tutta la piovenza del tetto e io ce l'ho praticamente in facciata dove c'è il terrazzo, ma se la dovessi portare, anche questa che ho adesso, questo pezzo di filo autocostruito, se la metto lì nella posizione del domenico da mano, sono convinto che ci sarà una resa ancora superiore, poi se è più forte della mano, ma o meno forte, questo non te lo posso dire, non ho mai potuto verificare, però l'ho fatto io questo lavoro. Avanti, Giacca. Sì, guarda, ritornando al discorso dei prezzi, adesso uno dice 140 euro e fa tante storie, io ho qua un'antenna che mi hanno mandato in omaggio con un apparato professionale dell'AIA ISU, se non sbaglio, è nuova, costa, è alta credo un metro e mezzo, con fatta di vetro resina sempre, con mallone in acciaio inox, e costa la bolletta di 250 euro. Da sola non vale niente, perché per funzionare le serve affiancato un accordatore automatico o manuale anche. Però per dire, sto guardando la X30 ad esempio, sto a parlare di prezzi, la X30 costa circa 50 euro più la spedizione. Un attimino sono al telefono, riprende pure. Beh, la X30 è lo stesso, già, io ce l'ho la X30, l'ho messa dalla AOR 1000 del ricevitore, che ho, anzi, AOR 2000 io, non 1000, AOR 2000, un ricevitore, uno scanner, praticamente. L'ho messa lì, anzi adesso addirittura attaccato, perché il ricevitore me lo sono messo dentro cassetto, perché dal tavolino ne ho tolto tutto quello che c'era, mi sono lasciato solo la televisione che guardo la notte quando sono a letto e il baracchino, basta, non ho altro nel tavolino, ne ho tolto tutto, prima era tutto pieno di apparecchiature, c'era anche un impianto di luci, tutto quello che avevo messo, mezzo comando giusto, mi sono stancato perché tutte le volte dovevo stare mezz'ora e più sfoverando tutto quanto, vedo col pennellino eccetera, e invece non c'è niente, passo panno nei ripiani del tavolino e tutto è a posto lì. E ti stavo dicendo, ma il piede 30 ce l'ho anch'io, tu presente ce l'hai il bastone della scopa, la lunghezza di un bastone di scopa e la rossetta anche, è così, sai che te l'ho pagata 60 euro più la spedizione della Diamond X30, per dire, e ci sono tre radialini lunghi, se no saranno, poi per esagerare, 15-18 centimetri, se non di più, forse 20, forse, è un bastone bianco, lungo quanto un bastone di scopa, di quella stessa lunghezza, forse anche più basso, con tre radialini sottilissimi da 6 mm, 5 mm di diametro, però sono pieni questi radialini, lunghi, 17, 18, 15, non lo so di preciso, ma così, comunque un palmo non ci arriva, quindi 60 euro più la spedizione. Perché questa c'erano quasi 10 anni, no, adesso, da 10 anni fa, da quando noi usavamo l'LPD allora, in quel periodo, si può immaginare già, da anni fa di così. Quello zingato. sono 6 metri, sono 2 metri, 3 metri da 2 metri, sì, 23 euro, e non mi sa che stamattina, pensa un po', stamattina mi sono fatta una passeggiata, ero lì, a curiosare più che altro. Poi alla fine ho comprato un altro rolante, l'ho comprato, e delle molettine piccoline piccoline, perché mi sto autocostruendo un banco sega in bottega, mi sto costruendo, che se vieni te lo faccio vedere, e dunque mi servivano delle molettine per allargare il foro di certe rondelle, perché mi servivano per fare l'adattatore per il disco rama, la rama che taglia il legno. E siccome avevo questo motore elettrico a 220 volt, non a 380, a 220, allora mi sono autocostruito questa macchina, che è una macchina praticamente che ti fa il lavoro di una banco sega professionale, tranquillo e pacifico, senza nessun problema. Mi sono comprato i cuscinetti, mi sono fatto l'albero, mi sono fatto, ci ho messo il motore con la sua cinghia, tutte queste belle cose qua. E ho costruito questa macchina, che io posso anche portarmela a casa, me la metto per dire in terrazzo, me la metto e alla corrente la posso utilizzare anche per fare qualche lavoretto qua a casa, che proprio non voglio farlo in bottega. Tutto io già, si sente, lo stavo dicendo, non mi sono tante volte quel tubo lì, e neanche un bel tubo. Poi c'è anche più corto e più grosso, poi ci sono addirittura i tubi in vetrovesina, larghi 6 cm di diametro e lunghi mi sembra che sono 1 metro l'uno. Sì, 2 metri e mezzo, e non c'è niente di particolare, perché sì, in ferroresina, la ferroresina è grossa quanto un pollice, quindi neanche si piega, c'ha un bel mollone, un attacco per i paraurti, però non c'è, non è niente di speciale, ecco, se ci mettevi un pezzo di rame di quello della tubatura dell'acqua probabilmente andava bene lo stesso. Però trattava a fare 260 euro. E ti ripeto, una X30 della Diana originale che costa intorno ai 60 euro, spedizione compresa, forse scontata già pure. Quindi ti meravigli che una Game Master costi 140. In fondo al fondo, se ci pensi un attimino, è in linea con tutti i prezzi che ti fanno. Poi tutte, anche queste registrazioni sono antenne professionali, ci metti un tubo di rame e il risultato identico, ti costa, quanto costerà un tubo di rame, 2,5 metri, 10 euro forse. Però è così, se vuoi le cose fatte in un certo modo, me paghi. Tu arrivi sempre quando siamo per chiudere, ciao Gianni. Vabbè dai, c'è Gianni e Gianfranco, oltre a me anche, ma ci siamo a presto. Tu sei troppo ritardatario, sì, artice di ghiso, anziché farti la pedichella sino alle 7:30, non le 8:15, entra presto, vai Gigi. Gianni, adesso le faccio una battuta, le faccio a Eugenio. Eugenio, guardate le antenne, non le faccio battute. Sto scherzando, Eugenio, ci mancherebbe altro. Ehi, vabbè, dai, comunque. Ci fa piacere che sei stato adesso, almeno ci salutiamo e via. A parte Eugenio, sia anche Gianfranco. Adesso ci vuoi dire che ce ne stai andando? Ti lasci su, fai bene te. Non è che hai detto, io venite che mangiate anche voi, no? Allora andate a mangiare, buon buon. Vabbè, dai, se stai chiudendo, e oggi ti saluto. Fatemi sentire presto, però la sera, non sarà le 8, grazie. Andate, Gioca, per Eugenio di Porto Torre. Ecco dove, Porto Torre, come lo volevo chiedere. Non so se a me mi sente perché io sto dicendo molto basso, con 4 watt, quindi non so se ci arriva a Porto Torre, comunque io lo sento senza nessun problema a lui. Quindi niente, io ho anche, tenere presente che c'ho Monte Oro, devo passare anche Monte Oro, quindi mi viene un po' in salita la Porto Torre. Probabilmente, anzi non mi sente, con questa potenza non credo di arrivare. Ciao Eugenio, comunque se mi ascoltate. Ha detto che appunto voleva chiedere a dove stavi trasmettendo intanto, che ti sente, però lui aveva dei dubbi che magari tu non lo sentissi, tu te lì, adesso io te lo rimando e vedrai che stai attento, vedrai che senti, se arriva a portatore lo senti, come non lo senti, altro che non è Sassari comunque lui, è fuori Sassari. Avanti Gianfra di nuovo per Eugenio. Sì, aspetta un attimo. Com'era? Un attimo. Non mi ricordo più com'era. Aspetta. Annaggia. No, non funziona più niente, ho capito. Sto sbagliando, aspettato, per darmi un po' di potenza, ma non c'è mai. Cosa che capita? Comunque io lo sento, non c'ho problema. Ho capito che è col furgone, giusto Giulio? Ok, ciao, ci sentiamo. Sì, perché stavo cercando Luigi, il pomello per aumentare la potenza e non l'ho trovato. in quel momento non ho riuscito a trovare il pomello che aumentava la potenza, va bene, la cosa. Avanti Gianni. tu, cioè, ma che cavolo ti hai comprato l'uovo? Ah, io ho capito, però sempre quello sottile, no? Sempre del 1548? Ho capito, quello con la carta argentata, allora sì, ho capito. Ho già in effetto anche quello. Vabbè, sarebbe stato meglio anche il cavo nuovo, però se ce l'hai, perché spendere altri soldi, va bene lo stesso. Già va bene, già, non è un problema. Ma guardi, già fa. Sì, che è successo adesso? No, ho scoperto il tasto, me ne ho dimenticato dov'era. Ecco, forse adesso sono un pochettino salito, un pochino leggermente. Dicevo, sì, poco fa ho capito già che era l'RG8, non l'RG58, quindi si è all'ultimo piano praticamente. Capito, quindi quello un po' più grosso non te lo farebbero mettere. Io avrei messo almeno il 155, che se non altro rispetto al 58 è tutta un'altra cosa. Presente che questo paragone dei DX non conta un tubo. Anch'io ho fatto DX ai tempi che furono con un'antenna di macchina e mi sentiamo benissimo, quindi la preparazione lo sappiamo, no? Sale, scende, va a destra, va a sinistra. Le misure si fanno con le stazioni fisse locali ed è così. Comunque, questo non esiste neanche più la RG58. Vabbè, quello che fanno adesso, quello di produzione adesso, è meglio non comprarlo comunque, perché si frasigheggia proprio in una maniera spettacolare, perché stanno anche sulla casa d'antenna, no? Siccome il rame è costosissimo, lo stanno mischiando con questa miscela metallica ferrosa che dopo qualche mese ti trovi il cavo nero. Ma solo per una questione di prevenzione, perché tu sai benissimo, tu mi insegni che le interferenze vengono create soprattutto nella calza del cavo di discesa, per cui siccome io sono in aderenza con altre case qui vicino, e sai, ci sono i fili del telefono, ci sono i fili della TV, eccetera, e se per caso la carta ti manda le despuglie, potrei disturbare, invece ho comprato quello perché è schermato al 100%, a differenza magari di altri cavi, anche il 213 lo stesso è schermato abbastanza, però solo all'85%, e io ho comprato la Camille proprio per quel motivo lì, rimane un po' più rigido, ma non mi interessa, una volta che è attaccato alla radio rimane fermo, no, se no non avrei preso quello, se no avrei comprato una cosa più maneabile. Ma l'ho comprata solo esclusivamente col preciso preciso scopo di non disturbare nessuno, nemmeno con le furie che attraversano la calza del filo di scena. Avanti, Giocca. Cosa giusta, perché molto TV hai dipende dal capo. Dal capo a distanza già di 20 metri è opportuno mettere cavi un po' grossi, proprio per questioni sia di perdite ma sia anche di soprattutto interferenze, perché tutto quello che passa non si trova dall'altra parte al di fuori dell'antenna, ecco. Cosa che con le RG58 ad esempio già in frequenza VHF, tu pensa con 30 metri da me, andando anche con 50 watt ci arriva pochissimo, c'è un crollo di potenza da paura, per fare 30 metri più 20 di traliccio praticamente, ho dovuto usare il Cellflex per avere perdite proprio ragionevoli, però quello è un cavo che non riesci neanche a piegare, perché anche quello grosso che utilizziamo per le celle telefoniche ed è interrato direttamente sotto terra. Poi per alcune tratte VHF eccetera il Messi Paoloni, neanche la Camille l'ho tolto perché è insufficiente. Messi Paoloni è un cavo italiano di altissima qualità, è veramente professionale, lo puoi anche mettere sott'acqua. No, io stavo parlando tecnicamente, quando si fanno le cose in una determinata maniera, tra virgolette professionale, quando invece si fanno queste installazioni così giusto per fare una chiacchiera, non è il 9-9-20 che fa la differenza, ecco. Tranquillo già, arriverai bene ugualmente, e molto probabilmente arriverai anche meglio, stando perlomeno le caratteristiche che elencano loro al computer a riguardo della Game Master. Poi naturalmente da vedere, ripeto, in lontananza, io parlo in lontananza, ma non da qui a Lino, o da qui da casa tua a casa mia, che sono io da qui a Porto Torres, no, io parlo in lontananza, in 10, in altre parole, arriverai sicuramente meglio, guarda, perché ha un dromo di 24%, a differenza della Mantova che ne ha un 18%, un 24, un dromo del 24, 18%, perché ha una prestazione di almeno 1, 1,5 e forse anche 2 decibel in più. Vedrai, te ne renderai conto dopo. Poi naturalmente, ripeto, ognuno i suoi gusti, le sue cose, vedrai che te ne renderai conto. Vabbè, avanti, io già. No, per carità, voglio niente. No, ma guarda, se dire ma ha cambiato l'antenna, sì, adesso sono in ricezione, non trasmetto più perché sono troppo vecchio, non ne ho voglia di dire così, come ho detto di sto maestro, ma è dire perché funzionava male o con l'argento, sono poi guai. Ok, niente. Comunque, ripeto, come per quelle misurazioni la propagazione non c'entra niente. Chi usa la propagazione per dire vado con questa antenna, vado più lontano, meno lontano, sono proprio, sono fesserie. Tu immaginati, io ad esempio la misurazione l'ho fatta con un collega che era, non ricordo dove, se Tiesi o quelle zone lì. Bene, con la Matovano non ci arrivavo, con l'Ipolo ci arrivavo perfettamente senza problemi. Vabbè, spiegalo, però è così. E dopo che chiudo e vi saluto ancora una volta. Avanti, Giofra. Sì, ciao Giulio, buona cena, alle prossime. Avanti Gianni per i soldi. Anche io lo stesso vado, mangio qualcosa, perché è già tardissimo. L'unica cosa che ancora manca, vabbè, che la 27 è rimasta un po' più, come dire, primitiva, ma ci vorrebbero gli apparati digitali anche per questa banda, molti sistemi ci arrivano. Sarebbe uno spettacolo, guarda, niente più mettere squelch, niente più QRM, proprio distanze impensabili, un altro mondo, anche niente più disturbi, chissà se la faranno, cioè ci sono già le radio ovviamente, però non sono nel nostro campo. No. Perché in realtà se vuoi ascoltare puoi ascoltare benissimo anche in digitale, diciamo che ci sono due sistemi principali, uno è quello dell'AIAESU e l'altro è quello dell'IMR che dal punto di vista anche civile è più diffuso, quindi sono liberi, non devi fare altro che guarda, una radio DMR costa 85 euro credo per fare ascolto in digitale, poi io guarda ne ho preso uno da poco, ricevitore che ha vari sistemi, costa un pochino, va bene perché fa anche gli altri, però li fa, non c'è problema, non ci vedo tutta questa, è più una cosa psicologica quasi che altro, però ora come ora gli apparati ci sono, sia per ascoltare sia per parlare, ti posso assicurare che la qualità siamo dal giorno alla notte, soprattutto quando sei sui segnali 1, sui segnali bassi, perché di lì non c'è differenza. Se ci fosse in 27 una cosa del genere, guai, sarebbe micidiale veramente, perché si andrebbe veramente, si inizierebbero ad ascoltare anche i paesi lontani, cioè lontani nel senso di, che ne so, Chiesi, Romana, insomma quelle zone lì che magari ti arrivano S1 e però li sentiresti chiare come l'S9+30, ecco. Perché li vedo, si sono portati sui social, che di lì possono dire quello che vogliono, stare ore e ore, guarda io conosco gente anche grande, tra di famiglia, quindi che dovrebbero avere una certa, come dire, guarda, vanno al ristorante, tutto cosa credi che facciano, che mangiano, fanno le fotografie del piatto che hanno ordinato, cioè per mandarlo chissà chi, poi per metterlo sul social, sono, guarda, tu non immagini quanta gente c'è che fa questa operazione, e quindi è ovvio che noi immagini perlomeno a quel livello di velocità non li possiamo andare, gli apparati sono di norma abbastanza grandi rispetto a uno smartphone, però puoi mettere la vita che dà una radio a questi smartphone del cavolo che stanno facendo il coglionino alla gente, a parte gli incidenti. C'è già un televisore 4K Smart TV da 50 pollici, gente è impazzita, ragazzini con questi telefoni fantascientifici che ripeto non c'hanno niente di nuovo, perché se devo fare una fotografia onestamente preferirei farla con una bella macchina fotografica, ma perlomeno mi fotografa un paesaggio, non vado a fotografarmi quello che sto mangiando o la persona con chi sono, ma che gliene frega, cioè sono cose proprio di una non ti so neanche spiegare, guarda. Ma secondo me non sono i ladri che sono furbi, sono le persone che stanno diventando sempre più tonte, veramente, perché non conoscono l'attrezzo che stanno usando, ecco. Cioè tutti i CD, almeno nel bene e nel male, sanno come usare un apparato radio, ma questi non sanno come usare il telefono, perché pensano che tutto sia consentito. Quando ti vedi, ti faccio l'esempio di quelli di Cagliari o di quel paesino, non ricordo se può essere Cagliari, che hanno messo il pestaggio di quel invalido su YouTube, la polizia non si è neanche mossa dalla caserma, ha guardato, si è fatto dare un mandato, hanno mandato una pattuglia e l'hanno preso. Cioè, ma più imbecilli di quelli, di quelle persone, veramente, cioè che mettono un'aggressione, un reato penale alla vista di tutti, eppure lo fanno, perché la gente non c'ha più testa, è inutile. Sapevo che adesso oramai qualche anno fa era una caccia ad esempio di quelli della Nuova Sardegna che ha denunciato, no? Perché tu facevi un numero IP e ti dava accesso a tutti i giornali appena usciti, e c'era qualcuno che si prendeva la briga di magari di portarli lì, e quindi tu li potevi leggere, però se ne sono accorti alla Nuova e credo che abbiamo fatto denuncia. E questi non sanno che anche a distanza di tempo esistono i log. Il log non sarebbe altro che una specie di agenda però elettronica in cui c'è scritto questo indirizzo alle ore tot, il giorno tot, è andato a visitare tot, ha prelevato questo file tot, insomma non si rendono conto che sanno tutto, ma tutto sul serio. Che si sente, anche noi usiamo queste software per tenere sotto controllo le nostre reti e non si rendono conto che veramente, guarda, ci sono dei programmi che ti dicono anche di che colore c'è gli occhi e quindi te ne scappa anche la risa di quanto, quanto sono ingenue le persone. Infatti io personalmente non c'ho né WhatsApp né Facebook né quelle cose di questo, no, non me ne può fregare a meno. No? Esatto, sì, il fatto è che tutti quei siti sono di norma serviti da fuori, capito, da paesi, tra virgolette, o dell'est, o paesi canaglia, in cui tu non puoi avere giurisdizione, quindi loro si fanno forte di questo, però comunque puoi perseguire le persone che ne fanno uso, se sono in Italia o in Europa, perché c'è una specie di Interpol praticamente tra le nazioni europee e anche americane che si occupano proprio di questo tipo di reati informatici che sono veramente spaventose e fanno un bel di soldi anche come con quella specie di monete bitcoin eccetera, ovvio. Thank you. prima o poi li trovano. Purtroppo quelli sono un genere di persone che campa la giornata, ma non nel senso buono del termine, nel senso cattivo. Finché non mi trovano io faccio del male. È così, guarda. Ad esempio anche quell'altra storia di quel ragazzo che ha coltellato quell'altro ragazzo quasi senza motivo. Quando eravamo piccoli noi, ma quando mai andavi a una festa, andavi a un qualcosa col coltello per offendere qualcuno? Eppure si legge anche di questo, poi subito lo mettono sui social, insomma un casino che qua fa e basta. Meglio non pensarci. Già, ti saluto, anche io vado a mangiare qualcosa, se no poi si fa troppo tardi e non si digerisce bene. Ciao ciao, salutami il cagnetto. Ciao. Tanto non lo sanno, figurati, adesso io mi avvicino alla porta, fuori c'è tanta gente che vorrebbe qualcosa da mangiare. Perché qua ci sono parecchi gatti. Ci hanno udito la paura. Vabbè, ciao Gianni, buona serata.